incauti amanti, un cieco amor. E d'uomo lontanati se da Orlando. E se vi giunge? Occorre anch'io nel petto, forse per me non sarà mai crudele. E avrà pietà di chi gli fu infedele. Affrettate nei passi per fuggire il suo sdegno. E l'opera mia per vostro aiuto impegno. Onor la nostra mente sa per guida un cieco dure, sa per guida un cieco dure. Frata origini profonde, era onor, era onor la nostra mente sta per guida un cieco lume, sta per guida un cieco lume. Per guida un cieco lume, sta per guida un cieco lume.